America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Los Angeles. Mario Platero, sono venuto nella West Coast, nella costa occidentale, proprio qui a Los Angeles, per partecipare a una conference, a un convegno sull'economia digitale, All Things Digital, organizzata da Walt Mossberg, uno dei guru del settore, e un convegno che esplorerà un po' tutto quel che succede nell'economia digitale. Ma ieri sera c'è stata una reazione, devo dire, particolarmente interessante a una notizia giunta dall'Europa, da Lione, dove c'è stato un convegno della World Health Organization, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, che ha concluso che le frequenze radio e i campi elettromagnetici, inclusi quelli che sono normalmente emessi dai telefoni cellulari, sono una possibile fonte di cancro per gli esseri umani. Qui a Los Angeles le persone non sapevano neppure di questa notizia che era appena arrivata, la loro reazione è stata naturalmente molto prudente. Il gruppo che si è riunito a Lione, 31 scienziati internazionali da 14 paesi guidati da Jonathan Sammet, il capogruppo, ha fatto appunto questo annuncio ufficiale ieri a Lione, e naturalmente anche il gruppo stesso ha espresso una certa prudenza, perché ci sono ben 5 miliardi di persone in tutto il mondo che attualmente usano telefoni cellulari, e dunque l'impatto di una notizia di questo genere, se dovesse essere vera, è ovviamente piuttosto preoccupante. Ma per approfondire questo dibattito ho invitato ai microfoni di America 24 Andrea Califano, professore di System Biology alla Columbia University, direttore del Genome Center, direttore associato del Centro sul Cancro di Columbia. Ecco, Andrea, buongiorno. Qual è intanto la tua reazione a questa sentenza della World Health Organization? La classificazione come gruppo 2B è una classificazione abbastanza aleatoria, nel senso che non è chiaro se questo agente, in questo caso la reazione elettromagnetica emessa dal cellulare, sia o meno tumorigenica, e quindi ci sono alcune indicazioni che lo potrebbero far pensare, ma i dati non sono ancora completamente chiari. Quindi questo più che altro porta a una certa cautela e alla necessità di studiare il fenomeno più in dettaglio. Andrea, cerchiamo di capire, ma per esempio negli articoli che abbiamo letto si parla soprattutto di tumore al cervello, però è una possibile reazione che potrebbe avvenire dappertutto, cioè il campo elettromagnetico, per esempio nel momento in cui uno ha il telefonino, non so, ha una cintura, oppure dentro una tasca, ci possono essere lo stesso delle reazioni di questo genere? Dunque, le uniche radiazioni che finora sono state collegate ai tumori sono radiazioni cosiddette ionizzanti, cioè sono radiazioni che sono in grado di spaccare le molecole, come i raggi X o i raggi gamma. Le radiazioni emesse dal telefonino sono radiazioni elettromagnetiche che invece non sono ionizzanti, quindi al massimo riescono per esempio a scambiare calore, per esempio lo usiamo nei nostri fornetti a microonde per poter riscaldare le pietanze. Quindi non c'è una connessione diretta, diciamo causale, che permetta di giustificare come mai queste radiazioni possono essere associate al rischio di tumori. E siccome sono radiazioni abbastanza, a lunghezza d'onda abbastanza lunga rispetto alle raggi X, che sono a lunghezza molto corta, si possono propagare anche a distanze leggermente superiori, quindi possono penetrare per esempio la pelle e entrare dentro il cranio. Come tutte quante le radiazioni, l'effetto diminuisce in maniera proporzionale al quadrato della distanza, quindi l'effetto diventa sempre meno forte quanto più si va lontano. Quindi l'effetto più ovvio si ha sulle regioni del corpo vicino al quale si tiene il telefonino, però stiamo parlando di rischio di tumori che comunque è ancora da validare. Tieni presente anche che i gliomi, la casistica dei gliomi prevede circa 7 casi su 100.000 pazienti, che è quello che si è visto come possibile correlazione dell'uso dei cellulari, aumenterebbe questo rischio del 40%. Stiamo parlando su una popolazione di 5 miliardi di persone con i telefonini, di circa 140.000 potenziali casi di tumore in più, però in genere su una popolazione di 100.000 persone con i telefonini in genere sarà più o meno una persona o due a rischio di contrarre un tumore, quindi il rischio è sempre notevolmente basso. Andrea, speriamo di no naturalmente, ma se dovesse essere confermato che c'è anche una minima percentuale di reazione alla formazione di un cancro per via di queste di questi campi elettromagnetici, ci sono delle tecnologie allo studio per minimizzare questo rischio? Diciamo che soprattutto le tecnologie che stanno sviluppando ora sono quelle delle basse emissioni elettromagnetiche da parte dei telefonini, e quindi c'è un intero ranking dei vari telefoni in base a quanta potenza come wattaggio emettano come radiazione elettromagnetica. Quindi la capacità, per esempio, di riuscire a comunicare usando diciamo potenze di emissione molto basse non solo allunga il tempo di vita del telefonino e quindi permette di conservare la batteria, ma permette anche di fare meno danno ai tessuti umani. È meglio non usare il telefonino oppure lo usiamo tranquillamente? Sai, noi che studiamo i tumori praticamente viviamo in un mondo in cui le possibili associazioni causali che possano portare alla tumorigenesi sono notevoli, sono un numero molto alto. Se dovessi comparare il rischio di radiazione elettromagnetica al rischio di radiazione UV, direi che per esempio la seconda è chiaramente causa un danno genetico molto più evidente e chiaramente con un linkage molto superiore alla formazione di tumori. Quindi diciamo che stiamo parlando di una casistica ancora per questo momento molto limitata. Andrea, la tua ricerca, in particolare a Columbia University, si occupa di cancro al cervello. So che avete una ricerca molto avanzata. A che punto siete? Abbiamo scoperto che due geni, che si chiamano CBP-beta e STAT3, sono in grado praticamente di trasformare delle cellule neurali in cellule che sono invece più simili al tessuto connettivo, quindi cartilagine, eccetera, cosiddette mesenchimali. E quindi queste cellule permettono al tumore di invadere, diciamo, la parte circostante del cervello, che è proprio il modo in cui il glioblastoma, che è il più grave dei gliomi, uccide. E quello che abbiamo scoperto che è interessante è che se blocchi questi due geni del tumore, il tumore praticamente viene bloccato a sua volta e non riesce più a muoversi e quindi dopo un certo numero di settimane muore. E quindi quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno è di scoprire se ci esistono dei farmaci che permetterebbero di spegnere questi due geni direttamente, come si dice nel gergo, in vivo, quindi in un animale o anche nell'uomo. E abbiamo trovato una serie di composti interessanti, tra cui degli inibitori di questa proteina STAT3 e anche di quest'altra che si chiama CPV-beta, che sono in realtà farmaci già usati per studi clinici e quindi potrebbero essere portati a uno studio prima chiaramente preclinico in animali di laboratorio e poi successivamente negli uomini, ma in tempi abbastanza brevi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Oltre ai numerosi successi musicali e cinematografici, Justin Timberlake ha appena festeggiato un'altra vittoria, la sua William Rust, l'auto da corsa sponsorizzata dalla sua linea di vestiti, ha vinto, pensate, la Indianapolis 500, una delle più celebri, famose, seguite gare automobilistiche americane. Di Justin Timberlake vi propongo What Goes Around Comes Around. Da Los Angeles, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.